I segni della venuta della grazia. Ma o Signore, come sapremo quando fai questo e qual è il segno della tua venuta? Sono forse i sospiri e le lacrime messaggeri e testimoni di questa consolazione e di questa gioia? Se così è, questa è una nuova antifrasi e segno inusitato. Che relazione c'è, infatti, tra la consolazione e i sospiri, tra la gioia e le lacrime, seppure si debbano chiamare lacrime o non piuttosto una sovrabbondanza della rugiada interiore, infusa dall'alto, come segno di un'abluzione interiore e quale purificazione dell'uomo esteriore? Come nel battesimo dei bambini nell'abluzione esterna è simboleggiata e indicata un'abluzione dell'uomo interiore, così qui, al contrario, da un'abluzione interiore deriva una purificazione esterna. O beate lacrime, per mezzo delle quali sono lavate le macchie interiori e sono estinti gli incendi dei peccati. Beati voi che così piangete, perché riderete? Riconosci, o anima, in queste lacrime il tuo sposo e abbraccia il desiderato. Inebriati ora di un torrente di delizie, succhia dalle fonte di consolazione miele e latte. Questi gemiti e queste lacrime sono i meravigliosi piccoli doni e il sollievo che ti ha offerto e portato il tuo sposo. In queste lacrime ti ha portato una bevanda in quantità. Queste lacrime siano per te pane, giorno e notte, pane che fortifica il cuore dell'uomo, più dolce del miele e del favo stillante. O Signore Gesù, se queste lacrime, suscitate dal tuo ricordo e dal desiderio di te, sono così dolci, quanto sarà dolce la gioia contenuta nella chiara visione di te? Se è tanto dolce piangere per te, quanto sarà dolce godere di te? Ma perché riveliamo in pubblico questi colloqui segreti? Ma perché tentiamo di esprimere con parole comuni questi affetti indicibili? Gli inesperti non comprenderanno tali cose e le capirebbero meglio leggendo nel libro dell'esperienza, dove le insegna la stessa unzione divina. Altrimenti la lettera esteriore non giova per nulla al lettore. La lettura, infatti, della lettera esteriore dice poco se una spiegazione proveniente dal cuore non rivela il senso interiore.